d'ossigeno impulsivo. E vedi la tua nota, portala fino alle nuvole, che volerò con lei. Fai sentire la tua voce, lo spirito che hai mi piace. Il tuo colore mi travolge ed il talento sai non finge. Mr. Billy Blue, dedicata a te. Mister Billy Blue. Ce n'è ancora, per ogni cosa che ho imparato mi metterò alla prova. E non ti preoccupare, sai perché? Io sono come te. Fai sentire la tua voce, lo spirito che hai mi piace. Il tuo colore mi travolge ed il talento sai non finge. La dedico a te.